Sì, buongiorno. Ciao Gianluigi, ciao. Non mi ricordo come ti chiami. Uno, due, tre. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E il pipa! Però arriva il travesaneo. Mannino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Higuain, va giù Higuain, è calcio di rigore. L'altro mese dalla fantasia. Higuain, parato da parte. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai. E vanno di mezzo a terra, Maggio, attenzione, calcio di rigore. Fischiarocchi, parte Higuain e la spedisce alta sopra la traversa. Madonna, che non hanno amato mai. Dove Nino potrebbe diventare Nino in argentino, bambino. Higuain non è un bambino, ma mi domando perché continuano a fargli tirare questi dannati calci di rigore. Pierluigi Pardo, ciao, l'uomo con la valigia. Ciao, ciao, ciao. Beh, qui diciamo che era uno shootout, quindi non era solo lui. Tra i cinque tiratori ci poteva stare, è andata come andata. Ne abbiamo parlato ieri in tutti i convocati weekend, all'ultima puntata stagionale, tutti i convocati weekend, tutti i convocati, invece c'è sempre tutti i giorni, anche durante l'estate, l'inverno, la primavera, l'autunno, insomma non ci fermiamo mai. Ne abbiamo parlato ieri, però a me non è ancora andata giù quel rigore sbagliato di Higuain. Ma io mi domando comunque perché continuano a fargli tirare. La domanda è la stessa, ripeto, cioè non è stato solo quello, non ha sbagliato solo lui, ma ha sbagliato, però insomma ce ne sono tanti di indizi, forse più di tre. Sì, no, ma assolutamente, è chiaro che stiamo parlando di un giocatore eccezionale, di un grande giocatore che in questo momento ha un problema, che è, credo, essenzialmente psicologico, non è un problema tecnico. Non è che adesso improvvisamente Higuain abbia disimparato, no, è no. Che quando cominci a sommare una serie di errori, alcuni dei quali come quello della finale, appunto nella finale contro la Lazio, perché quella era una finale, sì. E nella finale contro il Cile, quando cominci a sommare quegli errori lì, e poi hai un Everest ogni volta, la porta la vedi piccola, il portiere lo vedi enorme, e fai casino, e questo è quello che è successo l'altro giorno. E la buona notizia per Higuain è che adesso c'è l'estate, ci sono le vacanze, quel poco che potrà fare, e poi comincerà una nuova avventura a Napoli o altrove. Esatto. A Napoli o altrove. Senti, facciamo un giochino prima di mandarti sul treno e magari recuperarti strada facendo. Vai. Facciamo questo giochino qui. Fai Babbo Natale a luglio. Beh, con un caldo clima, che esatto, se esatto. More. Regala un giocatore a una di queste cinque squadre. Ti va? Vai, parti. Juventus. Oscar. Inter. Trequartista classico, se no è quello che vuole Allegri. Ci sono altre suggestioni, ovviamente, un esterno offensivo, però secondo me la soluzione più logica è questa. Quindi Oscar per la Juventus. Sì. Per all'Inter bulimica di questo periodo. Quadrado. Perché Quadrado non Salah? Perché Salah mi sembra che sia un po' incasinato dal punto di vista legale, e forse a questo punto, al di là della tweet di Paderai, delle dichiarazioni poi smentite, la marcia indietro della Fiorentina, che ha detto che ha parlato a titolo personale, però non è una bella storia nella quale l'Inter potrebbe decidere, se non ha proprio un grandissimo interesse per il giocatore, quindi di tirarsi. E Quadrado secondo me ha le stesse caratteristiche, comunque un esterno offensivo sicuramente. Vogliono anche Perisic, tra l'altro, ma vogliono tutto il mondo, l'Inter vuole tutti. L'Inter vuole tutti, tutto il mondo. Poi come li pagherà staremo a vederlo. Chi regali al Milan? Ma al Milan secondo me ha bisogno di un grande difensore centrale, perché ha cominciato, come spesso succede, dall'avanti non sono molti. Io riproverei a fare un salto per Godin comunque un giocatore con quelle caratteristiche, un grande centro, Benatia. Costa, però secondo me il Milan adesso ha sistemato davanti, forse anche in maniera ridondante, con due acquisti che fanno quasi scopa. E ha bisogno di un grande sì, senza dimenticare che davanti ha ancora Menezza, ancora Matri, appunto, cioè, appunto, un overbooking, no, ha un overbooking mica da ridere davanti. La Roma, che si è impantanata su questo mercato, si è impantanata su Gervinho, si è impantanata su Destro, su cui io mi farei delle domande, perché Destro è un giocatore che a me piace molto, continua a piacere moltissimo nonostante tutto. Sì, non buttarlo non ha senso. No. Conto se arriva l'offerta buona, ma buttarlo via non ha veramente senso, ma credo che ci sia un rapporto non idilliaco con Garcia. Per quanto riguarda la Roma, serve un grande attaccante, quindi vabbè, per me facendo fantacalcio consiglierei sempre Ibrahimovic, che è il giocatore che servirebbe in questo momento alla Roma. Costa uno sproposito, per carità, di ingaggio eccetera, è un investimento antieconomico che forse vale per 24 mesi, forse anche meno, però può cambiarti la vita, se no Dzeko sicuramente. Napoli sta crescendo bene, e secondo me serve. Allan è fatta. Siamo lì. Allan mi piace tantissimo, e quindi lo straconsiglierei. E poi direi Darmian. Cioè, la mia sensazione è che Darmian sia giocatore che di prospettiva può fare tanto. Il gioco di Sarri è un gioco sulle fasce, che ha uno sviluppo sulle fasce molto forte, quindi io direi questi due con una linea difensiva totalmente nuova. Beh sì, praticamente deve cambiare tanto il Napoli, secondo me cambierà tanto, perché la concezione di Sarri è completamente diversa, sì. Diversi diametralmente opposta a quella lì. Grazie Pier, ci sentiamo più tardi, certo. Ci becchiamo strada facendo, traffico. Tutte puttanate. Tutti convocati. Tutti convocati. Io vi invito a proseguire questo gioco. Foste voi un Babbo Natale fuori stagione che regalereste la vostra squadra? Abbiamo sentito le idee di Pierluigi Pardo, ma voglio tornare sulla Coppa America. Non possiamo farci niente, in fondo non possiamo farci niente. Messi, Maradona, ci porteremo dietro questo paragone finché campiamo. Qualche giorno fa, dopo il 6-1 sul Paraguay, Paolo Condò ha scritto sulla Gazzetta dello Sport il solito meraviglioso articolo: ho visto Maradona, anzi era Messi. Ciao Paolo. Caro Carlo, caro Paolo. Rigiri il coltello nella piaga. io invece sabato notte ho visto Messi, non era Maradona. Sì, allora, ho visto Maradona, era riferito non soltanto a una prestazione sublime, perché aveva giocato benissimo la semifinale contro il Paraguay, ma anche al ruolo. Sì, perché certo. Messi, che è essenzialmente il più grande attaccante che abbiamo mai visto, aveva giocato da numero 10, non più falso 9, ma vero 10, avevo scritto. Sì, sì. E questa sembrava la premessa perché la maledizione finalmente si sciogliesse. Non è andata così, non soltanto nel ruolo, ma anche nel rendimento, che è stato estremamente modesto. Sì, io vedi Paolo, io penso a tutti i grandi campioni della storia dello sport, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird nel basket, e chi vuoi nel ciclismo, nel tennis, quando la palla diventa pesante loro dicono dalla me. Questa è una generazione di fenomeni, questa è una grande squadra dell'Argentina, altro che, almeno dalla metà campo in su, che rischia di passare alla storia senza lasciare alcuna traccia. E è inutile far finta di niente. È chiaro che il paragone Messi-Maradona è una suggestione, perché paragoni epocali sono sempre sbagliati e fuorvianti. Però sempre lì si va a finire, cioè alla fine quando il pallone diventa pesante, la pulce non riesce ad essere decisivo. Questo lo racconta la cronaca dei mondiali e della Coppa America. È vero, però è fatta la postilla, non riesce a essere decisivo nelle partite fondamentali con la nazionale, perché le finali col Barcellona le ha giocate tutte alla grandissima. Cioè, non è che l'hanno vinta i compagni per lui. Sì, sì. Le ha vinte lui, ti ricordi il gol di testa addirittura all'Olimpico contro il Manchester United, la prestazione favolosa con due gol contro il Manchester United, la stessa vittoria contro la Juventus, non ha segnato, ma è lui che ha scoperchiato la difesa della Juve col primo passaggio del gol dell'1-0 e poi ha condotto il contropiede che ha portato al gol di Suarez. Difatti noi a Berlino l'avevamo giudicato migliore in campo. Sì, sì, ma giustamente, ma lì è un pesce nella sua acqua. Lì è un pesce nella sua acqua, che nuota nel suo mare. Non è da dire che è un fuoriclasse del giovedì, sì, sì. Come si dice, no? Quelli che nell'allenamento del giovedì sembrano dei fenomeni. Ecco, lui ha giocato bene tante partite decisive, però le ha giocate indubitabilmente con la maglia del Barcellona, dove evidentemente, cioè, lui si sente talmente, la mia interpretazione, che non può che essere psicologica, perché di tecnico non c'è nulla, anche l'Argentina è una squadra di campioni, poteva essere forse la squadra di Maradona, aveva delle grosse pecche in difesa, ma questa è veramente, c'ha tutto quello che si può desiderare, è un problema psicologico. Lui col Barcellona gioca sereno perché sa che qualsiasi cosa accada loro gli saranno grati vita naturale durante. Con l'Argentina no. L'Argentina, lui finché non vince un trofeo, e ormai i tempi si stanno, il prossimo tentativo è fra 3 anni, sì, quando sì. Ne avrà 31, cioè ormai è l'ultima chiamata. È l'ultima chiamata, no, beh, poi ci sarà sicuramente almeno un'altra Coppa America, sì. L'anno successivo, però comunque questa doveva essere la sua Coppa America propedeutica a presentarsi al prossimo mondiale senza più paranoie per la testa. Qualcosa ho vinto e quindi ora puntiamo al bersaglio grosso. Sì, sì. Invece qui rischia veramente di chiudere a zero. E sarebbe, per gli argentini, sarebbe veramente la beffa del secolo. Sì, quasi antistorico. Sì, assolutamente antistorico. Tornato Pardo, Pier. Come va? Stiamo sentendo, no? Ma sono d'accordo. Caro Piero. Ciao Paolo, sono d'accordo con Paolo, nel senso che non stiamo, come diciamo ieri, non stiamo parlando di un tacchino freddo, non stiamo assolutamente parlando di un giocatore debole nelle grandi partite, di un giocatore con problemi di personalità, l'ha dimostrato mille volte con la maglia del Barcellona. Si potrà dire che il Barcellona è una squadra perfetta, però lui il suo ce l'ha sempre messo, quindi io non, veramente, mi sembra un'eresia dire che Messi manchi la personalità nelle grandi partite. C'è una serie di, a parte in generale gioca peggio con l'Argentina rispetto a come gioca col Barcellona, e questo è oggettivo, vale anche delle amichevoli, e poi chiaramente la storia di una nazionale si basa su poche partite che puoi, certo, giocare alla grande o poi quindi, ma è anche un modo diverso di giocare, anche non è che ha giocato 100 finali e ne ha sbagliate 90, ha giocato 2 finali e ne ha sbagliate 2 o 1.5 se volete, quindi alla fine poi siamo legati all'imponderabile. Certo, quella forza, tanto so dove voglio andare a parare, quella forza di uomo che trascina il popolo, che riesce a risollevare qualsiasi situazione che aveva Maradona, quella personalità in nazionale che Maradona aveva, Messi non ce l'ha. Maradona era il condottiero di quella squadra, era un leader quasi, verrebbe a dire, politico di quella squadra. Messi non lo è. Messi è il più forte giocatore che c'è al mondo, che delle volte si impantana, e quando c'è un clima da guerriglia o comunque quando la garra cresce come l'altra sera con quell'intervento nei suoi confronti, magari sparisce, mentre Maradona si sarebbe gasato il doppio. Certo, Maradona ne avrebbe tratto ancora più energia. Per quanto riguarda il Cile, per cui tu facevi il tifo, Pierluigi, e questo no, lo ricordo, ma io ti questo, lo, l'hai dichiarato, l'hai dichiarato l'altro giorno. No, mi spiace per l'Argentina, no? Che il no, ma io a parte non tifo per nessuno, ero dalla parte, cioè, del più debole, sì. Mi piaceva l'Argentina, poi adesso mi piace l'Argentina, ma io ho dei problemi con gli sconfitti, rosico per tutti. No, ma per il Cile, Paolo, il trionfo invece della generazione dei Vidal, dei Sanchez, addirittura dei Vargas, che giocatore in Napoli non sa più cosa farne, ce l'ha prestato in tutto il mondo, eppure ha trovato una consacrazione il Cile in questa Coppa America giocata in casa. Ma loro hanno avuto una congiunzione astrale felicissima, no? La miglior generazione che può giocarsi la finale in casa contro una rivale più forte, ma molto, come dire, paranoica per certi versi. Ma ti rendi conto che Mascherano, che è l'uomo più dotato di huevos, che io abbia mai visto su un campo, diciamo su, nello sport, non ho mai visto uno come Mascherano che alla fine della partita dice: ragazzi, forse è colpa mia, forse sono io che porto sfiga e quindi vinceremo quando mi ritirerò. Cioè, Mascherano. Sì, sì. Cioè, io mi dai Mascherano, Medel e altri due e io vado a fare la guerra e ti conquisto la Svizzera. Cioè, te la conquisto. Ecco, è Mascherano che va a dire una cosa del genere. E quindi è evidente, c'è qualcosa di esoterico in quello che è successo. Sì. Il Cile ne ha approfittato alla grande. Giocando, il Cile c'ha un bravissimo allenatore. Questo Sampaoli è veramente molto bravo, perché è coraggioso. Cioè, oltre a essere bravo, è un allenatore coraggioso che è partito alla ricerca della palla, puro bielsismo questo. Andare a caccia della palla in tutte le zone del campo, dovunque, non dare un attimo di requie a quelli che devono impostare il gioco della squadra avversaria. E quindi questa è stata la chiave. Perché al di là del fatto che non hanno fatto gol, hanno dovuto aspettare i rigori, però dentro di loro non hanno mai tremato, non hanno mai avuto paura dell'Argentina, che sinceramente dopo il secondo tempo col Paraguay un po' di paura doveva incuterla. Beh sì, un po' sì. Poi dentro a questa maledizione storica c'è l'infortunio di Di Maria, che sì. Di Maria è il giocatore che scoperchia le difese avversarie, certo. Perché fermarlo in certi momenti è impossibile. Al mondiale si fa male nei quarti di finale e qui si fa male a metà del primo tempo della finale. Sì, questo è indubbio, è il giocatore tatticamente più importante di quella squadra. In un'edizione della Coppa America in cui, lo ricordiamo, il Brasile mostra tutti i suoi limiti. In questo momento del Brasile, come lo pensiamo noi, è rimasto solo il meraviglioso inno nazionale e quella storica maglietta, perché dentro quelle magliette viene da dire sotto il vestito niente di questo Brasile. Certo che Pier, 100 milioni, chiedere adesso 100 milioni per Higuaín è dura, dura. Perché poi il calcio vive di questi paradossi, nel senso che sinceramente il rigore sbagliato contro il Cile non è che possa mettere in discussione il valore di Higuaín da un punto di vista razionale. Cioè, non è che è l'ennesimo episodio, però è una catena di episodi. Sicuramente abbassa il prezzo e potrebbe esserci anche un problema di rigenerazione psicologica di questo calciatore, perché poi, come dicevamo prima, qui il problema psicologico sui rigori è evidente, però è un problema che si è manifestato in maniera bellissima. Cioè, Higuaín comunque, voglio dire, nell'immaginario collettivo è l'uomo che sbagliando quel rigore non ha portato il Napoli champion con stagione. Però questo è ciò che rimane, purtroppo è la feroce bellezza del calcio, appunto. Il ragionamento ci sta primo, e poi anche secondo me c'è un'onda lunga di partite mancate. Penso alla grande occasione in finale l'anno scorso con la Germania, certo. Perché insomma Higuaín ha avuto il suo momento e non l'ha preso. No, è una catena di episodi che non possono non condizionare anche la carriera di un calciatore, per chiudere con Paolo Condò. Sì, io credo che, allora, Sarri gioca molto bene a calcio e credo che sia molto divertente giocare in una squadra di Sarri. Penso che i ragazzi dell'Empoli si siano molto divertiti in questi anni. Io credo che Higuaín non dovrebbe andare via da Napoli, non dovrebbe spingere per andare via da Napoli, non lo sta facendo, almeno per il momento, almeno a carte scoperte, quindi di anticipare il suo pensiero. Non dovrebbe andare via, ma dovrebbe restare lì e mettersi a totale disposizione, con grande umiltà, a totale disposizione del nuovo allenatore, perché penso che anche lui avrebbe tutto da guadagnare dall'idea di ricominciare a divertirsi in campo. E detta questa cosa di Higuaín, io trovo, mentre il Tata Martino era stato intelligente perché aveva protetto Tevez nel quarto di finale ai rigori contro la Colombia, dando l'errore esiziale del 2011, e non l'aveva messo nella lista dei tiratori, poi non si era potuto esimere e aveva superato la maledizione, lui non avrebbe dovuto mettere Higuaín nella lista dei tiratori, perché Higuaín ne ha sbagliati troppi quest'anno, ne aveva sbagliati troppi, compreso quello decisivo contro la Lazio l'ultima giornata. Il CT lo deve sapere questo, deve sapere che Higuaín sotto pressione tende a non essere lucido, a sbagliare i rigori, e doveva mettere un altro giocatore nella lista nella lista dei cinque. Questo è stato un per suo proteggerlo, errore. Per proteggerlo. E ti dirò che, esatto, doveva proteggere come aveva protetto giustamente Tevez nella serie iniziale contro la Colombia. E ti dirò che il Tata Martino, ecco, lui sì, poveraccio, sta passando la storia, perché è l'unico allenatore che non ha vinto nulla col Barcellona in questi anni, e adesso rischia di essere uno dei tanti che non hanno vinto niente con l'Argentina nell'era di Messi. Grazie Paolo. Buona grazie giornata, buone ferie. Ciao ciao. Ciao Paolino, grazie Paolo Condò, Gazzetta dello Sport naturalmente. Marco da Frosinone, stia lì, abbiamo la borsa, poi parliamo. 800 24 00 24. Oro verde, torniamo su questi argomenti, ma andiamo soprattutto sul calcio mercato, perché questi sono giorni bollenti non solo dal punto di vista meteorologico. A dopo. Spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Ricominciamo. Convocati. Ricominciamo, giustamente. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Marco da Frosinone, Andrea da Teramo, 800 24 00 24. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare una considerazione per quanto riguarda la diatriba se meglio Messi o Maradona. Io ho abbastanza anni per ricordarmi molte partite che ho fatto Maradona con Napoli, così come mi ricordo dei dieci anni circa trascorsi a Napoli, in cui ha vinto solamente due scudetti. Mi sembra ingiusto dire che Maradona ha vinto da solo con il Napoli, perché aveva fior di giocatori con il Napoli. Io mi ricordo di Carega, Lemao, De Napoli, Trippa, Ferrara, Giordano, Carnevale, Bruno Giordano. Carnevale, sì. Mi ricordo di un Maradona che nell'82 non è stato determinante, mi ricordo di un Maradona che nel 90 ha perso in malo modo una finale, così come mi ricordo tante partite che ha fatto con il Napoli in cui Maradona non strusciava un pallone. Purtroppo secondo me siamo abituati a ricordarci i grandi campioni di un tempo vedendo i filmati e vedendo le varie protette. Guardi Marco, io di partite dove Maradona non strusciava pallone ne ricordo sinceramente pochine. Intorno a Maradona venne costruita una signora squadra. Non dimentichiamo però che il Napoli fino ad allora non aveva vinto nulla e fu all'ombra del carisma di Maradona che si creò quella squadra. Non possiamo dimenticare che Maradona vinse un mondiale da solo con una squadra praticamente di Serie B. Cioè, tolto Valdano, tolto Burruciaga che era un buon giocatore, c'era una linea difensiva comandata da Brown di Mazzolatori, un centrocampo che faceva diga, tutto il resto era Maradona. Quindi questo è un risultato sportivo. È anche vero che Messi ha ancora tempo, è anche vero che non ha il ma non per colpa sua il carisma di Maradona, non ha quella capacità di essere condottiero, ma ha certamente gli stessi numeri tecnici, addirittura è più bravo in zona gol, i numeri lo dimostrano, però quella leadership naturale a Messi manca, almeno secondo me. Andrea Teramo, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Senti, io sono un tifoso del Napoli e ti dico la verità, per me Higuain è un campione, però è un po' sopravvalutato, perché sinceramente non mi strappare i capelli se il Napoli decide di venderlo anche intorno ai 50 milioni, prende Immobile e qualche buon giovane in difesa, però io ho dedicato due strofe, se le vuoi sentire. Sì, carini. Come no? Allora, Pipita, se avevi paura di tirare i calci di rigore, avevi vinto la Coppa America e forse il Napoli il tricolore. Ti piace Carlo? Mi piace moltissimo Andrea. Dai. Mi piace moltissimo. Di sbagliare un calcio di rigore non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Pierluigi, eccolo. Te ne sei sentite le strofe di Andrea da Teramo sul Pipita? Beh, qualità, grande qualità. Grande qualità. Allora, andiamo a fare un giro tra i banchetti del mercato? Sì. Vai. Sì, andiamo. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. Non c'è un termine prefissato in questo momento, c'è soltanto la voglia di noi di tenerlo. Lo faremo parlare anche con il nostro allenatore, sa benissimo quello che gli ha dato la Fiorentina, speriamo che ci sia riconoscenza nei nostri riguardi e mi sembra che da parte sua la predisposizione sia positiva. Non gioco più, me ne vado. Gomez dopo la sponda di Salah, gli dà un grande pallone, occhio a Salah che accelera, entra in area di rigore, Salah! Ordina per il cross Pasquale, palla in mezzo verso Ilicic, attenzione, sarà rete, Fiorentina in vantaggio. Non gioco più, ti assicuro. Per quanto riguarda Salah non ha fatto alcuna telefonata anche per altri giocatori, però la scheda no, dico, è stata l'estate finora in cui ha dovuto fare più telefonate della sua carriera da allenatore, per quello avevo finito il credito e non gioco più. Compriamo una scheda per Mancini, per favore. Toir, compro una scheda per Mancini, per favore. Sta telefonando come un pazzo. Sandro Sabatini, ormai volto di Mediaset Premium e del mercato di Mediaset Premium. Comparto grande qualità con me, piccola qualità. Grande qualità. No, non buttiamoci giù. Grande colpo di mercato. Grande colpo di mercato, Sandro Sabatini, per Mediaset Premium e per il neonato canale. Mi sembra sia diventata abbastanza antipatica, al di là del credito di Mancini, che per favore compriamogli una scheda, ma eventualmente mettiamo 10 euro anche noi per mettere dei soldi del telefono di Mancini, se a Toir non gli avanza nulla, ma non credo, visto che sta cercando di comprare tutto il mondo. La storia di Salah sì, però sta diventando abbastanza pidocchiosa, posso dirlo, sta diventando abbastanza antipatica, sta diventando molto antipatica. Ah. E posso sicuramente dire però una cosa, che qui non bisogna crocifiggere Salah, al di là del fatto che comunque l'Inter si è mossa evidentemente in tempi non regolamentari, comunque è quella scrittura privata che la Fiorentina vuol far valere, quella scrittura privata c'è scritto chiaramente che Salah ha la possibilità di decidere al termine del primo periodo di prestito. Sì, sì. E, cioè, capito? Se poi non è stata depositata o no, insomma, però sono particolari, sono formali, nella sostanza ha ragione Salah, non ha ragione la Fiorentina. Sì, questa è la situazione, ma certo, perché Salah è un professionista. Se mi dicono stai qui e prendi un 1,8, faccio un'ipotesi, mi chiamo un'altra squadra e ti dico ti do 3, e tu che fai? Cioè, sto lì a 1,8, cioè, è un professionista, quindi fa i suoi conti e fa i suoi ragionamenti, poi vediamo se ci sono le carte per trattenerlo. È così, Pierluigi? Sì, e poi c'è un discorso anche di opportunità, insomma, è un discorso anche di soldi, cioè sì, Salah è un professionista, ma certo, ma anche di opportunità, nel senso che comunque nel calcio moderno, che ci piaccia o no, il parere del giocatore, la voglia, la motivazione del giocatore è decisiva. Quindi mi chiedo veramente su quali basi si possa pensare di trattenere Rente in questo caso con le cattive Salah, al di là del fatto che poi ci sono delle zone d'ombra, cioè la Fiorentina per me ha tutto il diritto di sentirsi danneggiata e sì, offesa e dall'inserimento ma questo sì, sono dei tweet così un po' stonati che poi ho bisogno della rettifica ieri, no? Però uh-huh, io capisco perfettamente l'irritazione umana e forse ci sono anche degli elementi oggettivi di comportamento scorretto da parte di altre società, segnatamente dell'Inter, però ripeto, la sostanza è quella. Come fai a tenere Salah in queste condizioni, a meno di un clamoroso ribaltone che mi sembra difficile da immaginare? No, la Fiorentina ha tutto il diritto di sentirsi di essere incazzata, perché è un giocatore. La Fiorentina può fare una cosa che poi è quello che per esempio sta proponendo di fare la Roma con Destro, può cercare di possibilità che rimanga Salah la Fiorentina mi sembra che ce ne siano poche, può cercare di trovare un compromesso, cercare di arrivare a degli obiettivi che possano essere più interessanti e più utili per lei, spostando il giocatore in una situazione che però deve essere per forza gradita. Sì, certo, il giocatore chiaro, comunque chiaro, questo potere ce l'ha, che ci piaccia o no. Chiaro, anche per la formula contrattuale. La Fiorentina che comunque si è mossa senza grande tempestività in tutta questa vicenda. Senti, Sandro Sabattini, la Juventus alza la bandiera Marchisio, contratto fino al 2019, è lui, il, insomma, è una delle bandiere di questa squadra indiscutibilmente, ed è lui il futuro. Non trovi però che la Juventus, così com'è, abbia in questo momento un deficit di leadership? Un deficit di leadership per le assenze di Pirlo e Terenz, credo sia innegabile. Innegabile, è una Juve molto più giovane, la leadership è... poi tra l'altro non è casuale il fatto che i due giocatori eventualmente più richiesti sul mercato siano i due altrettanto evidentemente con più personalità, ovvero Bonucci e Vidal. È una Juventus che però sembra mettere il potenzialmente, cioè i leader si possono anche sostituire. Ecco, con giocatori che hanno lo spirito di appartenenza e sono magari leader silenziosi, esattamente come Pirlo, e il riferimento è evidentemente a Marchisio. Marchisio che oggi viene battezzato con questo contratto lunghissimo da giocatore che ha sempre giocato nella Juve, a parte un anno a Empoli, dove andò con Giovinco, credo che sia comunque il giocatore che prenderà il posto in campo nello spogliatoio, il posto appunto di Pirlo. E riuscirà a farlo, secondo me, riuscirà. Più problematica invece, sia come leadership sia tecnicamente, secondo me la sostituzione di Tevez. Perché Tevez aveva qualcosina di più che non si fa fatica ad immaginare in Dybala, sia come personalità sia anche tutto sommato tecnicamente. Sì, sì. Ragazzi, ci fermiamo un secondo per il traffico, poi chiudiamo il discorso con Pierluigi Pardo e Sandro Sabattini. È sicuro? 100%? Tutti convocati. Convocati. Cosa sogni in questa squadra, di completarti, di diventare come chi? No, di diventare come nessuno. Sicuramente ho fatto un anno importante, parlando sempre calcisticamente a Parma, e devo crescere. Questo Milan non è il Milan top calcisticamente, deve crescere anche lui, allora cercheremo di crescere insieme. Mihajlovic? Con Mihajlovic? No, sì, cosa vi siete detti? No, non ho parlato con lui. Sicuramente la chiamata di Galliani è stato, diciamo, la cosa più importante e la cosa più facile a poter dire sì. Questa era, ragazzino, Giuseppe Mauri, colpo a costo zero, colpo, poi vediamo. Comunque, giocatore a costo zero per il Milan, arrivato oggi svincolato dal Parma. Io a Sandro Sabattini, oltre che a Piero Gipardo, volevo chiedere un parere sul curioso mercato a due binari dell'Udinese, che lavora per i Pozzo, lavorano per l'Udinese, ma lavorano anche per il Watford. Adesso c'è questa trattativa con il Napoli, Inler e Britos più soldi, forse 10 milioni per Allan, che interessa moltissimo al Napoli, però Inler forse non vuole andare al Watford, Britos magari sì, e i tifosi udinese con il cerino in mano, che fanno? Sandro, che fanno? Che fanno? Fanno che, non lo so, a me non dispiace, ecco, l'idea che comunque ci siano le società satellite all'estero. Sì, sì. In caso del Watford c'è un certo fascino. Ma qui il satellite rischia di diventare l'Udinese, Qui il satellite rischia di diventare l'Udinese, ragazzi, è vero, ma sapete perché rischia di diventare l'Udinese? Perché comunque in Premier League sta arrivando una pioggia di milioni, il business dei Pozzo potrebbe anche diventare lo stesso Watford, così. Poi se è lecito, è lecito, e quindi dobbiamo accettarlo. Se non è lecito non tocca a noi dirlo, ma agli organi competenti che competano, insomma, sulla cosa. Riguardo ai tifosi dell'Udinese, poi è vero che magari diranno qui scusa Pozzo per chi lavora eccetera eccetera, però poi alla fine credo che l'esperienza e la storia trentennale dei Pozzo a Udine, quasi trentennale dei Pozzo a Udine, penso di mettere al riparo da qualsiasi pensiero e preoccupazione. Sì, sì, questo sono d'accordo, però è chiaro che per motivi economici, cioè il core business della famiglia Pozzo in questo momento è il Watford per queste ragioni. Sandro, ti ringrazio, buon lavoro, ci vediamo in TV. Ti vedo, grazie a voi, un abbraccio. Ti vedo su Mediaset Premium. Che ne dici per Luigi di questa storia dell'Udinese? È curiosa, È curiosa e può far arrabbiare, è evidente. Certo che comunque sentirsi improvvisamente di Serie B non va bene, soprattutto perché l'Udinese è la squadra che, fino a prova contraria, negli anni, negli ultimi 20 anni, ha avuto una storia migliore rispetto al Watford, però torno un po' al discorso che faceva Sandro, cioè rimproverare qualcosa ai Pozzo è abbastanza complicato. E credo che alla fine loro, è chiaro che in questo momento il loro focus è più sulla Premier League, per quello che si racconta a Berinazzo dalla mattina alla sera, cioè la Premier ha bisogno tra i maggiori, però penso che alla fine non lasceranno sola, you'll never walk alone, diranno dell'Udinese, quindi non la lasceranno da sola. Sì, però io capisco che anche loro dicano ok, c'è questo giro di giocatori, ora mi vendi Allan che è un signor giocatore, il mio prezzo pregiato di questo mercato, ne prendi un paio che tenti di girare in Inghilterra e a me cosa resta? Va bene di Natale, va bene l'arrivo di Colantuono, va bene una squadra che è abituata a fare i miracoli, però questa io credo possa essere il sentimento dei tifosi dell'Udinese. Gilberto da Venezia, non so se è tifoso dell'Udinese. Sì, pronto. Pronto? No, non è tifoso, è tifoso di? Sono interista io. Interista, va bene. Senta, no, volevo dire, prima disputavate su Messi che adesso avete cambiato argomento naturalmente. Comunque Messi secondo me è uno dei migliori giocatori, anzi forse è il migliore del mondo. Non ha i compagni giusti a fianco, perché anche questo commissario tecnico ha lasciato a casa Palacio, ha lasciato a casa un giovane come Icardi, e essendo interista dico sono fior di giocatori. Ha lasciato a casa anche Dybala volendo. Sì, anche, beh, vabbè. Ne ha lasciato a casa un po'. Ha portato via, vabbè, Higuain, che è un bravo giocatore. Dopo, secondo me, ha sbagliato a fargli tirare il rigore, perché lui gli sbaglia tutti e praticamente, poverino, non è capace di tirare i rigori, ecco. Per quanto riguarda, volevo dire anche su Salah, io non so i tempi, i modi del mercato, ma si parla di mercato per 365 giorni all'anno, no? Non so come mai le società non possano fare per 365 giorni all'anno i propri affari. Perché non funziona così? Cioè, perché ci sono dei periodi prestabiliti che, come sappiamo, sono d'estate, si è aperto l'altro ieri, d'inverno, ci sono due finestre in cui i trasferimenti possono essere concretizzati. Poi si parla di mercato 365 giorni l'anno, ci sono trattative più o meno lecite o legittime 365 giorni l'anno con giocatori o allenatori sotto contratto 365 giorni l'anno, per i trasferimenti possono essere effettuati solo in questo periodo. Ti piacerebbe un mercato sempre aperto, come succede ad esempio nell'NBA, Pierluigi? No, francamente no, io non sono un grande... Con giocatori che cambiano da un giorno all'altro? No, a me non piace quando, per esempio, un giocatore gioca una partita e poi si ritrova la settimana dopo a giocare in un'altra squadra. Non mi piace tanto l'anomalia di un campionato che comincia con una o due giornate che sono prima della fine del mercato, ma è una via forma di così, diciamo. In questo sono abbastanza antiquato e credo che in qualche circostanza il mercato aperto mentre il campionato è già cominciato non aiuti. È una di quelle cose, secondo me, dove c'è tutto il vento che porta invece a un'ulteriore liberalizzazione, quindi è una battaglia persa, però non mi fa impazzire come tipo di cosa. Credo che in qualche momento sia danneggi, possa distrarre, certo, possa creare anche allusioni, no? Possa creare allusioni, possa creare sospetti. Ricordiamo Neto quest'inverno, già promesso sposo dalla Juventus da un sacco di tempo, qualche rumors c'era stato, no? Qualche allusione, qualche battuta, qualche cosa di questo tipo. Poi sappiamo che ci sono giocatori che come Neto appunto, che sono già promessi sposi di altre squadre, si tratta solo di aspettare, o altre disfunzioni come giocatori che vengono messi fuori rosa, fuori squadra, perché rifiutano di inchiostrare il contratto. Credo che non siano eliminabili queste distorsioni, credo che non siano eliminabili. No, queste no, ma è appunto se ci sono le cose, come quando c'era una parte della io non eravamo nati né io né te, ma si dice, no, che c'è stato un pezzo del mondo intellettuale italiano che negli anni 50 ce l'aveva contro la televisione a colori, la sfida della TV, cioè ci sono le cose che fanno paura, che mettono paura così a prescindere, perché dove arriveremo su internet sappiamo che c'è stato, no, questo tipo di atteggiamento da parte di molti, e poi alla fine però non si mette a fare social network. Il mercato sempre aperto è una diciamo, è un segno dei tempi, secondo me, quindi forse ci si arriverà, forse no, però insomma anche se non ci si arriva da un punto di vista formale, poi sappiamo che qualsiasi società, diciamocela apertamente, può contattare un giocatore, un procuratore, e quindi il condizionamento a sé. Riuscire a circoscrivere tutto a un paio di finestre di mercato mi sembra il minimo indispensabile, sì, per cercare di non fare troppo. Sì, sì, ma tra l'altro Fiorentina in questi giorni si lamenta dell'interferenza dell'Inter su Salah, ha contattato Paolo Sosa, ha preso l'allenatore che aveva altri due anni di contratto con il Basilea, ma anche questo, ripeto, fa parte delle regole del gioco, secondo me. Francesco Modena, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Vi ascolto tutti i giorni, anche di notte. Ma grandissimo, anche di notte. Faccio l'autista, per cui di notte dalle due in poi vi ascolto la replica. Sì. Complimenti, mi date veramente compagnia. No, volevo parlare di Cassano, che se ne sente poco parlare. Un giocatore, insomma, a me piace, però non credo che, insomma, sia una persona da star fuori da qualche squadra italiana. Non lo so, questo lo chiediamo a Pardo, io non sono... No, penso anch'io, io penso che alla fine troverà una strada. Praticamente pensavo e speravo che fosse più rapida, nel senso che comunque poi secondo me rappresenta, per la motivazione che ha, per il fatto che è fisicamente integro, il fatto che comunque non ha ancora 33 anni, e io credo anche una sua consapevolezza del fatto che non potrà guadagnare le cifre che guadagnava qualche tempo fa, per me può diventare, per qualche squadra può diventare un buon affare. Questo al di là del mio rapporto personale di simpatia, però credo davvero che questo possa succedere. È chiaro che è uno di quei giocatori che hanno un'etichetta molto precisa, molto profonda e anche pesante per certi versi, di gente che può anche creare problemi. Ma sai cosa ti dico? Io, se fossi, non so, faccio un'ipotesi Ferrero, visto che la Sampdoria è il nome più ricorrente. Io una ricostruzione della coppia Cassano-Balotelli, due giocatori in questo momento, uno senza squadra che è Cassano, l'altro in disgrazia come Balotelli, proverei a rimetterli insieme, a fare la coppia europea con le motivazioni che hanno, magari in una squadra non centrale chiaramente, ma in una squadra di questo tipo, secondo me ci sarebbe da divertirsi. Ma sì, ma anche la stessa Fiorentina. Anche la stessa Fiorentina. Insomma, diventa... fare di mezzo, ma magari qualche offerta arriverà pure, ma io non credo che Cassano finirà al Botafogo o allo Sporting Lisbona o Olimpiaco. Credo che alla fine troverà una soluzione italiana, però certamente insomma, sono d'accordo con l'ascoltatore, se ne parla poco perché in questo momento c'è poco, insomma. Sì, un interessamento, no, credo del Bologna, l'eterna gestione della Samp, allora, però sappiamo è alimentata anche proprio dal popolo, cioè dalla passione popolare, e poco più. Ciao Pierino, ci sentiamo domani alle 2. Ciao, buon viaggio. Noi invece sentiamo insieme il giornale radio e poi torniamo per parlare con voi, 800 24 00 24, per parlare di calcio e di altro. Secondo me questo è tutto da rifare. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Si ricomincia. Tutti convocati. I semafori sui motori, 2, 3, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio di Gran Bretagna, che parte adesso con Lewis Hamilton che scatta bene, parte fortissimo Felipe Massa che prende subito la prima posizione. Cosa fa la Williams? 1-2 con Valtteri Bottas, cerca di rispondere Lewis Hamilton e lo fa su Valtteri Bottas, è ruota a ruota lì davanti. Che partenza Massa, incredibile, si è messo subito davanti e Bottas che riesce a tenere nella sfida con Lewis Hamilton che ci riprova, va all'interno, da dietro fuori, si sono toccate le due Lotus Hamilton, ce la fa a mettere dietro Bottas e Rosberg che è rimasto nel traffico alle spalle anche della Williams in quarta posizione. Safety car che rientra, mette la freccia, inizia a spingere Felipe Massa con Lewis Hamilton che gli sta addosso, vuole subito andare a prendersi la prima posizione, si fa vedere destra, sinistra, bloccaggio dell'anteriore destra per Hamilton che va lunghissimo, ha provato qualcosa di impossibile, rientra al limite e si rimette davanti a Valtteri Bottas, ci sarà da discutere, Bottas va, Bottas davanti, che bella partenza, che bella gara per ora, con Rosberg che quasi tampona Hamilton e ci prova all'esterno, attenzione a Rosberg, vuole passare Hamilton, vuole arpionare la leadership del mondiale, sentite in sottofondo il boato del pubblico, quanta azione, va dentro l'angolo al limite con Hülkenberg, la Ferrari che ha fatto un super lavoro a mettere Vettel nelle condizioni, con Bottas che va ovunque, non sta in strada, piove tantissimo, non è finita amici, non è finita, siamo nel corso del 45esimo giro, ma adesso si è scatenato l'inferno, si è scatenato il diluvio e Bottas va ovunque con la sua macchina, vediamo cosa succede lì davanti. Sinistra, destra, è baciato dal sole che torna, andare a prendersi la 38esima vittoria della carriera. Lewis Hamilton vince per la terza volta in carriera, come Jack Brabham, come Niki Lauda, come Michael Schumacher, il Gran Premio di Gran Bretagna esulta. Allora, ieri vento e pioggia che hanno fatto affondare Nibali al Tour de France hanno permesso invece a Vettel, alla Ferrari, di conquistare un altro podio che era onestamente inaspettato visto come andavano le Williams. O no, Leo Turrini? Buongiorno, io comincerei, caro Carlo, con le notizie sul traffico dall'Appiero Cormano. Cosa è successo? Dove c'è una coda, perché ci sono 38 gradi di temperatura, sì, come sapete, e però c'è un autista che sta montando le gomme da bagnato. E purtroppo questo è Kimi Raikkonen. Ora io voglio dirvi, veramente non gliene va bene una questo finlandese, gli sta grandinando sul casco, hai capito? Sì. Ieri è stato il primo a scegliere di passare le gomme da bagnato e la pioggia, come cantava Gianni Morandi, scende la pioggia, ma che fai? Invece ha smesso di scendere per tre giri, per cui un presunto colpo di genio si è rivelato un autogol, è andata molto meglio che arriva bene, poi ha sottolineato con tre righe rosse, ecco, arriva bene il nostro amico tre righe rosse, il nostro amico Mauri, sotto la scelta di Raikkonen, tre righe rosse, altra bocciatura. Sì, però ho detto una cosa, adesso io su questo voglio essere molto sereno segnalandovi che c'è una coda anche all'altezza di Maranello, perché Marchionne è furibondo e sta transitando con una Jeep Grand Cherokee che perde olio da tutte le parti, perché è furibondo Marchionne, poi risponderò alla tua provocazione a proposito di arriva bene, perché la Ferrari è tornata sul podio in assenza del suo presidente. Beh, ma questo, ora, era quasi scontato alla radio della Confindustria, lui ormai minaccia di guardate che io, se non fate i bravi vengo, io so che alla radio della Confindustria non vi fa piacere sentirvelo dire, però ricordatevi il famoso detto partenopeo, non è vero ma ci credo, in due Gran Premi quest'anno la Ferrari non è salita sul podio, in entrambe le circostanze c'era l'uomo col pullover, quindi dovreste meditare su questa cosa. No, per quanto riguarda... ma medita tu, Leo, cioè lui è così, lo sanno ormai tutti, come dice Tsipras, voi siete di formazione di potere, come dice anche Varoufakis, no, io vi dico le cose, mi limito a segnalarvi i fatti, poi dopo pensateci voi ad abbracciarli come volete, ma devo risponderti su Iron Mauri, arriva bene, sì, non c'è dubbio, arriva bene, parla come mangia, cioè, dice quello che pensa, però qui si è creata una spirale, io lo voglio dire con molta serenità, in realtà ieri arriva bene non ha mica detto niente di ha detto una cosa banalissima, cioè in quelle situazioni limite decide il pilota. È il pilota che fa la chiamata, è sempre un azzardo, ti può andare bene, ti può andare male, tra l'altro arriva bene, anche detto se veramente veniva a piovere in quel momento lì Raikkonen aveva vinto la corsa. Il problema qual è? Che siccome la Ferrari non ha, almeno fin qui, e chiaramente questo mondo non lo farà, esercitato l'opzione per l'estensione del contratto del biondino a tutto il 2016, allora ogni episodio che riguarda lo sventurato Kimi viene esasperato e ingigantito. Cioè ieri i piloti avevano, diciamo così, la necessità di decidere sulla base delle loro sensazioni. Non sì. tutti sono esperti di meteo, per dire. Io mi ricordo una volta nel 2006 eravamo in Ungheria, era una situazione rovesciata, c'era Schumi sulla Ferrari in lotta per il mondiale con Alonso. Dal box gli dicevano: la pista si sta asciugando, rientra, se no distrugge le gomme intermedie. Schumi, che era Schumi, disse no, perché io voglio provare ad arrivare fino in fondo così. Distrusse effettivamente le gomme e si classificò ottavo. Cioè, questo non c'è niente di, hai capito? Non è che lo so, però il problema è che il biondino non ha più credito. È finita la scheda del cellulare di Raikkonen. Anche però quella di Raikkonen, oltre a quella di Mancini. Facciamo qualcosa per tutti e due. Però voglio dirvi, mentre Raikkonen sta montando le gomme da inverno con 38 di sole sulla Piero Corbano. Ma voi, ma quando pensate a Bottas, ieri avete visto Bottas, no? Che è il candidato numero uno alla sostituzione, ma a me viene in mente un piatto di riso bianco non scondito. Cioè, voi ferraristi siete entusiasti di questa opzione? Io non lo so, hai capito? Poi, per carità, nel momento in cui viene meno la fiducia, se la Ferrari arriva bene, la Rava, la Fava, Marchionne, che c'è il gran Cirocco in fiamme, due, Tsipras, Varoufakis, e vogliamo cambiare Raikkonen, cambiamo, lo voglio dire, c'è 36 anni, mettiamocene uno più giovane, questo io non, sì, non mi ne in però, realtà Bottas, però, hai ragione tu, cioè non credo possa accendere la fantasia. A parte che io ti invidio moltissimo, gente, perché so che stai trasmettendo la forma intera, sei lì con tutti i calciatori. Esattamente. Tutte le venine, come fai a saperlo? Che voi del calcio siete dei bei fenomeni, veramente. C'è, cioè, l'andato, tipo Ibiza, cioè Pardo, dove sarà là che fa la boa all'Argo di Formentera, che fa i servizi travestito da boa per Mediaset Premium. Ma io beh, amico, ma siete una roba voi del calcio incredibile. Però volevo completare il discorso. Va bene, vogliamo una Bottas di vita per la Ferrari? E se proprio la volete, prendetevela. Però ascoltate quello che io vi dico, non da Formentera ma da Maranello, come dovreste aver intuito anche ieri. Io lo dico sempre a mio amico Genta: il problema della Ferrari non è chi guida la macchina, è la macchina. Perché abbiamo visto a Silverstone, tu hai fatto bene a segnalarlo all'inizio, che se non ci fosse stata la sorpresa meteo, purtroppo le rosse andavano più piano anche della Williams, non solo della Mercedes. Quindi il problema è lo sviluppo della macchina. Certo, ma mi sembra che il sorpasso sia ormai acclarato. Ma sono le modifiche che vengono portate sulla vettura che regolarmente, come i piani di riforma di Renzi, non funzionano. Non so se si possa dire questo a radio, come no? Ma io lo dico. E questo in Ferrari accade da anni. Portano le modifiche, le innovazioni e misteriosamente sulla Piero Corbano la macchina rossa rallenta. Allora, questo è il vero problema e non tutta la tomella, il casino intorno alla figura di Raikkonen. Questo è il guaio sul quale bisogna ragionare, cioè che la Ferrari ha la necessità di un'iniezione di competitività sulla vettura, perché comunque ieri è arrivato un podio ma si andava più piano. E ti dirò anche, mentre tu sei lì a Formentera con Ceci, tipo Inzaghi, cioè ci siamo tutti, queste cose meravigliose, siete un bel giro di mignottoni, ti voglio dire, tra parentesi, confermo. Confermo. E finché la pista era secca, correggimi se sbaglio, caro Carlo, tu che sei il Dostoevsky delle onde erziane, Raikkonen era davanti a Vettel, era stato più veloce di Vettel per tutto il weekend. Questo per amore di verità cronistica, il venerdì, il sabato, eccetera. Comunque va bene, adesso. Comunque mi sembra, Leo, che il dato politico, se me lo consenti, il dato politico sia che il sorpasso della Williams sulla Ferrari, al di là dell'acqua di ieri, sia acclarato. E il mondiale se lo giocano, è già finito da tempo, forse non è mai cominciato, se lo giocano quei due là in una realtà parallela. E tra quei due là Hamilton fa il gatto, allora, e Rosberg fa il topo. Il nero, io ho sempre sostenuto, abbia qualcosa in più, cioè, anche negli anni in cui non vinceva. Io ho una mia teoria, che poi ovviamente è opinabilissima, che se mettiamo tutti i top driver sulla stessa macchina, stesse gomme, stessa strategia, credo vincerebbe lui, perché da quando l'ho visto arrivare in Formula 1 nel 2007, questo ha un istinto naturale per la velocità, diciamo che ha meno buon gusto nel vestirsi, anche negli occhiali che scegli, che sembra sempre un tamarro uscito da è certo, un tamarro totale, del, sì, diciamolo pure, di Paninari degli anni '80, capito? Quando vedo Hamilton faccio un tuffo nella mia giovinezza 30 anni fa, dico, ma questo qui, ma da veramente un tamarro, da quale sì, telefilm sì, è uscito. Però come pilota un manico straordinario. Rosberg è bravo, intendiamoci, non voglio essere frainteso, perché sta poi sempre lì, non è, c'è Schumacher Barrichello, no? Che c'era mezzo minuto su ogni traguardo. Però io penso che Hamilton farà molta molta fatica a perdere questo campionato. La questione per la parte nostra, ferraristi, appassionati, innamorati della rossa, eccetera, mentre Raikkonen non ha ancora finito di cambiare le gomme su Piero Cormano, quindi se state transitando lì abbiate pazienza, perché ricordatevi che ci sono 38 gradi al sole, ma il finlandese monta le gomme da neve, da neve, sì, da neve. Dicevo, il guaio è che, come tu segnalavi, nell'ultimo periodo, facciamo nell'ultimo mese, la Williams è cresciuta e la Ferrari no. E la mia preoccupazione è che questo è un trend che riscontravamo già nei 5 anni zero titoli di Fernando Alonso, al quale facciamo un applauso. Cioè, a me vederlo partire da penultima fila, a me si stringe il cuore. Il primo punto con la McLaren dopo 8 anni, perché l'ultimo punto con la McLaren Alonso l'aveva fatto nel 2007, quando si azzuffava con Hamilton. Poi sono d'accordo con te, anche quello è uno dei disastri della Formula 1 permanente, del presente. C'è un marchio come la McLaren e un mito come la Honda che hanno combinato il più grande, è un fenomeno come Alonso, dai. E Alonso, che è un grandissimo campione, che si è auto condannato, hai capito, alla retrocessione, una roba che mette una tristezza. Adesso col senno di poi forse è il caso di dirlo: Fernando avrebbe fatto meglio, visto che non voleva più restare a Maranello, a prendersi un anno sabbatico. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Gli daranno tanti soldi, ma è veramente è un'umiliazione, è un'umiliazione, è un'umiliazione continua, è un'umiliazione, sì, continua, perché anche perché non si vede uno spirale, capito? È come lì sulla Piero Cormano, non accelerato, Raikkonen ha quasi finito il montaggio delle gomme da inverno, mentre il termometro segna 39 gradi. Dicevo, sì, è una mortificazione per un grande talento. Io ti dico, se l'è anche un po' cercata. Se l'è cercata, però... Lui avrebbe dovuto, secondo me, dire, tanto si sapeva che questa operazione McLaren Honda era molto molto pasticciata, avrebbe dovuto dire, ma io non ho bisogno di 25-30 milioni di dollari, ne ha già presi, credo, 300 e passa. Posso anche mettermi alla finestra un anno e forse qualcuno avrà nostalgia di me, hai capito? Ecco. Sì, e però dipende dal fuoco che hai dentro, secondo me. Per un fuori classe, io non lo so adesso. No, è umiliante, è semplicemente umiliante. E per chi non è tifoso. È come se tu, invece di essere a Radio 24, con tutto il rispetto, fossi a Radio Tirana, hai capito? Io ti seguirei lo stesso perché sei bravissimo, ma mi direi: ma perché Genta è finito in Albania? Hai capito? Invece che qui a Formentera, dove ovviamente mi trovo. A Formentera, dove c'è Pardo che fa la boa, e poi Cerci, Inzaghi, le veline, sì, scosciate, tutte queste cose, beh, io vi leggo, la Bandosiris, siti di gossip, certo, sì, formidabili, sì. Caro Leo Turini, siamo sempre lì, ci stiamo tutta l'estate, a Formentera. No, sempre lì siete, allora magari un weekend vi raggiungo, così magari, certo, mi spiegate anche come ha fatto il mio amichetto Toir a trovare tutti questi soldi, perché tu che lavori per la Confindustria, non so, questo ci sto indagando, non sono ancora arrivato ad una risposta. Appena ce l'ho, te lo dico. Non so, forse Varoufakis adesso viene all'Inter, io non capisco perché non c'era una palanca, che all'improvviso qui ogni giorno compriamo un giocatore. Sono esterrefatto. Pare che tu sia in trattativa anche per il Partenone, eh? È quasi fatta, lo corona di nerazzurro. Che è questo, scusa? Il Partenone vuole comprare il Partenone. Ormai siamo lanciati. Bulimica l'Inter. Inter bulimica. Terrificante. Ciao Leo, grazie. Ti abbraccio, grazie, forte. Te, maestro, sei sempre il numero uno lì a Formentera. Qui da Formentera saluto e ringrazio Leo Turbini. Alessandro, Luca, buongiorno. Buongiorno, senta. Allora, rispondendo un po' a Turrin, innanzitutto è facile ora purtroppo criticare la più grande azienda del mondo di auto. Siamo un po' in deficit e sinceramente Ferrari sempre e comunque grazie. Il problema è che secondo me è un po' come Vettel quando aveva la Red Bull, cioè attualmente c'è un gap che non riesco a capire da che cosa può essere dato, ma è una macchina che è indistruttibile come lo era quella di Vettel prima, che anche quando andava fuori pista non batteva, mentre una Ferrari fuori pista spaccava gli alettoni, le ruote, spaccava tutta la Ferrari. Quelle sono circostanze, coincidenze. Santo Dio, ma capitano tutte a quegli altri quelle belle circostanze. Diciamo che purtroppo noi in questi ultimi anni si sta pagando anche quello che ricordava Turrini, cioè una tristezza di Alonso che è stata alla Ferrari in una maniera... secondo me scandalosa. No, è io non sono, pilota, no, non sono d'accordo. Alessandro, non sono d'accordo su questo. Secondo me, invece, Alonso ha spremuto da una macchina che non andava tutto il meglio possibile. Basta guardare i distacchi abissali che ha sempre avuto sui compagni di squadra. Quella era una macchina che sbagliata, che non andava, e negli anni in cui è stata la Ferrari, e sono stati probabilmente gli anni centrali della carriera di Fernando Alonso, che secondo me rimane uno straordinario pilota. Ha fatto tutto quello che poteva. La macchina di quest'anno al pronti via è stata sorprendente, un po' per tutti. Adesso c'è qualche problema, come diceva giustamente l'autorino, di sviluppo. Quindi è questa la vera ragione del gap che a questo punto comincia ad essere evidente anche nei confronti di una Williams che ieri è finita dietro a Vettel solo per circostanze, solo per la pioggia. Vorrei fare un salto rapido al Tour de France. Pieragusto Stagi, ieri la pioggia ha dato una mano alla Ferrari, vento e pioggia invece hanno affossato Nibali. Oggi c'è il muro di Huy, una tappa importantissima, il santuario della freccia vallone. Cosa ti aspetti, Pier? Mi aspetto e spero che Vincenzo perlomeno salvi la pelle oggi. Non è una tappa, bisogna essere franchi e realisti, non è una tappa che sorride al nostro campione, perché l'arrivo sul muro di Lyon si premia e agevola chi ha forza esplosiva e scattante, leggero, tipo Contador ad esempio, che potrebbe beneficiarne, Rigoberto Urán, Alejandro Valverde. Sono questi che potrebbero comunque guadagnare qualcosa, una decina di secondi. Mi auguro però che Vincenzo abbia una forza mentale all'altezza. Quindi oggi deve salvare deve limitare i danni anche oggi. E deve limitare i danni soprattutto alla luce di quello che potrebbe accadere domani, che invece è una tappa, speriamo, perché in realtà anche quella di ieri doveva essere una tappa che doveva premiare assolutamente la Stana, invece è andata letteralmente in barca e si è dissolta nel mare del nord, e anche la tappa di domani è una tappa che dovrebbe sorridere al team Astana e al nostro corridore. Però al Tour de France noi ciclismo, come nella vita, non si può mai dire nulla, come direbbe Troccazzone, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, e quindi non diciamo niente, incrociamo le dita e speriamo che Vincenzo non incroci le gambe. Grazie Pier Augusto, ci sentiamo domani. Intanto facciamo il tifo per Vincenzino nostro oggi sul muro di Huy, dopo la bastonata che ha preso ieri. Giornata storta che però al Tour de France si finisce per pagare sempre. Non riesco a parlare con Davide dalla provincia di Rimini perché abbiamo finito il tempo, mi dispiace molto. Se avrà la bontà di chiamarci domani, naturalmente sarà il primo della lista. Io ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiori in redazione, e ci sentiamo domani dopo il GR delle 2. Ciao! Ciao, aiuto!